Scriverti e dir la verità non sarà facile, perché un po' di anni ci separano. E tu hai deciso che son troppo vecchio ormai per costruire un'altra vita come piace a me. Se tu ascoltassi le parole che non dico, se tu vedessi il mio stupore dentro agli occhi, sapresti che dentro di me arde quel giovane che ancora c'è, molto ancora da donare. Forse i tuoi figli sono troppo grandi ormai e non necessitano più di assistenza. Forse il capo si incurva al lume a leggere ed i lavori sono gravi per le braccia mie. Forse i consigli che ti do sono scontati e tu sopporti a stento i miei gravi peccati. Forse la rabbia di vedermi troppo debole non ti permette di comprendere il mio sì. Mia cara figlia, ti amo tanto. In nuove prospettive e inventa altre possibili esistenze, perché il futuro gravido c'è e in serbo altre prove anche per me. Penso che in fondo potrei dare altro amore, penso che tutto non sarebbe ormai vano, e allora spazio con fremenza in altri luoghi e invento nuove avventure per il cuor. Se credi che triste ricovero mi attendo ormai, se credi che nulla il mondo possa attendersi, se pensi che l'agilità stia in fine il corpo e questa autusata si sia ormai fatta relitto, se vuoi recludermi in spazi e tempi stretti, se ignori l'ansia che ancora esiste in me. Penso che tu abbia fatto male i conti tuoi, perché in fondo gli anni passano anche per te. Mio caro figlio, ti amo tanto ancora. Scelgo.